Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar, come va? In questo 2 maggio, di la verità, che è passato tutta la domenica invece che a vedere le partite, a sentire il concerto di Roma. Ah, sì, sì, sì, è una cosa che non mi perdo mai, no? In realtà non sono quelle tradizioni, ogni tanto magari scanalando vedo qualche artista, però non... Niente, non ti prende, non ti prende, non il concertone. Comunque oggi è successo qualcosa, qualche polemica, qualche cosa. Niente di particolare. Niente andato di particolare. Il tram tram, per così dire. Vabbè. Adesso naturalmente i fanatici, i fan, voglio dire, del concertone diranno che non rispettiamo. No, la musica benissimo, ottimo bella, il concertone, abbondante come... Allora, Sant'Atanasio oggi, Sant'Atanasio, dottore della Chiesa, e anche Sant'Antonio da Firenze. Sant'Antonio da Firenze è uno di quei santi che a me piace tanto, perché è un santo che apparteneva alla famiglia dei banchieri Peruzzi, e infatti riconciliava la teologia col capitalismo e il mercato. Quindi Sant'Antonio da Firenze mi è sempre piaciuto. Però ci sono anche tanti santi con nome ovviamente diffusissimo intorno a noi. Oggi è San Boleslao, Espero, San Zoe, Teodulo, Valdeberto, Vendemiale, Viborada, Longino, Guisitano. Beh, Guisitano, una bella formazione di calcio, per così esatto. dire. Nel 1975 nasceva oggi David Beckham, mentre invece oggi è il giorno in cui moriva Leonardo da Vinci. Ah. E quindi insomma mi sembra, visto che abbiamo chiamato film meccanica Leonardo, povero Leonardo da Vinci. Almeno in suo onore, almeno questo è il giorno giusto. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, oggi Oscar non ci sono i giornali, lo abbiamo già detto. Liberazione. Oggi è la liberazione, il 25 aprile quindi. Il 25 aprile dei giornali. Forse gli italiani si sentono un po' meglio. No, non lo so, dai. Dovrebbe essere un giorno quello in cui i giornalisti non lavorano, invece di essere utilizzato per andare in vacanza. Secondo me dovrebbe essere un giorno di riflessione obbligata sugli eccessi di noi giornalisti. Sì. Per esempio leggono sui giornali in questi giorni, tra venerdì, sabato e domenica, ho letto degli editoriali su il patriottismo economico, che significa mentire sui debiti delle banche, difendere Banca Italia sulle regolazioni e quello che succede nelle banche, che veramente mi hanno fatto riflettere, perché mi sembra che molti colleghi giornalisti, chiedendo di mentire per la patria, non ricordino bene come è nato il fascismo. Il fascismo è nato così. Noi siamo nati per non mentire su questi problemi economici, civili. So che talvolta è scomodo, però la nostra funzione dovrebbe essere questa. Quando io mi sento dire serviamo la patria rispondendo al nemico, allora mi vengono i brividi, ecco, devo dire la verità. Sì. Per esempio venerdì sera il governo ha emanato un decreto in cui dice che al 50% vengono ammessi al ristoro quelli che avevano le obbligazioni delle quattro banche risolte a novembre, lo sai, è successo il grande casino, a seconda di quanti soldi hanno di reddito o di patrimonio. Cosa c'entra? Chiunque avrebbe dovuto dire, caro governo, il problema è se sono stati truffati o meno, se sono stati informati o meno, non dipende dai soldi che hanno. Invece tutti a battere le manine. Così. Insomma, sai che quando parli di banche io ti ascolto, però non mi addentro. No, però sui soldi qual è il criterio per cui se ci rimetti dei soldi in banca te li devono ridare? Secondo te è giusto per quanti soldi hai di reddito o se ti hanno truffato o meno? Direi la seconda, no? Interrogazione, prof. No, ma dai, tutti quanti noi abbiamo dei soldini in banca, pochi, ma ce li abbiamo. Ma certo. Vabbè. Comunque, insomma, però il paragone col fascismo, questo è... I toni che ho letto nella risposta ai tedeschi, eccetera, eccetera, dicendo noi non abbiamo fiducia di voi, che chiedete che i titoli del debito pubblico italiano sono a rischio. Tutti i titoli hanno dei rischi, però per carità, io non voglio accusare nessuno, però sarebbe bene che ogni tanto i giornalisti moderassero i toni. Insomma, oggi senza giornali, quindi un po' hai stappato un nano ghiacciato. Ho stappato un nano ghiacciato. Ti dico cosa penso della nomina del comandante della Guardia di Finanza. Perché? Cosa c'è il comandante della Guardia di Finanza? No, scusa, la comandante della Guardia di Finanza è il capo del corpo dello Stato che deve garantire la trasparenza tributaria dei conti pubblici, una delle funzioni più alte, no, al nostro ordinamento. Leggiamo anche lì sui giornali, ma senza mai entrare nel merito, che c'è stato un grande scontro, perché il Quirinale era contrario al nome e anche il MEF. E invece è passato il nome del Presidente del Consiglio, però insomma accennando del perché, insomma, uno scontro di queste proporzioni è alla testa del corpo che guida la trasparenza, tutti noi contribuenti dovremmo diteci perché. Insomma, io se leggo che il Quirinale e Padoan sono contrari vorrei capire meglio, invece si accenna ma il fratello di questo generale avrebbe dei problemi, il generale scelto da Renzi stava a Firenze, ho capito, però spiegateci meglio, no? Ma magari nei prossimi giorni ci sarà qualche... intanto però il comandante giornali, è diventato lui, però intanto sì, è diventato lui. Oh, qua invece, caro Oscar, ho scatenato un putiferio. Prima, visto che non c'erano i giornali, si chiacchierava un po' anche all'indomani del primo maggio di lavoro. Ho detto che molti giovani, in realtà, che non vuol dire che non c'è la disoccupazione giovanile, è drammatica per certi versi. Però ho detto che molti giovani, a mio modo di vedere, non hanno voglia di lavorare. Non hanno voglia di lavorare. Lorenzo Nespoli ci ha raccontato l'episodio, collabora con un amico in pizzeria e ha detto che molti si presentano e dicono: ah no, ma lavorare il weekend? No, se si lavora il weekend io in pizzeria non lavoro. Capite? In pizzeria si lavora il weekend. E questo naturalmente è inaccettabile. Ti ha attirato l'accusa di essere come Padoanschioppa, i bamboccioni, sì, eccetera. Ma sì, allora mi dicono i Ciusi, la Fornero, ma secondo me che alcuni siano viziatelle e vogliono lavorare alle proprie condizioni, è vero. Il problema è vero. Insomma, non tutti. Le opinioni sono opinioni, ma i fatti dicono che per le qualifiche basse del nostro mercato del lavoro gli italiani non le vogliono. Questo lo dicono i fatti, le statistiche, cioè che finiscono per essere gli immigrati, il che significa ristorazione, settore alberghiero, logistica e trasporti, grande distribuzione, supermercati. Chiunque di noi sa che è così, cioè se vive in un paese e va in uno di questi posti trova gli addetti. Non è che li scelgono perché li vogliono immigrati, è perché gli italiani dicono no, perché significa turni, orari, vacanze, eccetera, eccetera, in controtendenza rispetto alle attese. Perché la gente si scandalizza? Ma non so, si scandalizza forse perché anche dire sembra mettere un dito nell'occhio di chi invece cerca un posto di lavoro e mi dispiace non lo trova e ma veramente spesso farebbe cerca un posto di lavoro tutto, perché ho veramente sentito prima nella trasmissione se cerca un posto di lavoro dicevo ma io c'ho la laurea laurea anche no laurea e poi anche. Soprattutto presa dove perché sapete che il valore legale è una finzione, non è così, cioè se ti puoi essere laureato in economia in alcune un po' il mercato dice ok, in altre è un po' come la vecchia giurisprudenza la laurea in economia, esatto. Beh, e allora cosa dici, voglio da me? Fare ti devo l'avvocato formare da zero a Roma dove ci sono più avvocati che in Francia e forse non avrai, se non hai come dire delle belle entrature avrai un po' difficoltà a trovare clienti in famiglia. Capito, perché? Più che altro se invece ti laurei nelle nanotecnologie applicate alla medicina stai sicuro che ti cercano in tutto il mondo e ti ricopriranno di denaro e io sono d'accordo con te. Il problema è che siccome la nostra funzione è dire alcune di queste non sono sgradevoli, sono verità fattuali che però per così dire sono un po' abrasive sul luogo comune ripetuto, sì, no? Esatto. Sì, ma io poi parlavo anche di lavori, se vuoi, lavori senza dover andare all'università, proprio anche certo, l'idea che molti tecnico giovani, manuale, molti giovani, ma ci ha raccontato che anche qui a Radio 24, possiamo dire non c'è più, c'era uno in passato si è presentato, ha detto io voglio occuparmi di sport, ma il weekend? No, il weekend però io non lavoro. Come ma noto lo sport! Lo sport! Lo vabbè. Sport! Vabbè, comunque insomma, voglio dire, ognuno sa come si è regolato quando era giovane. Io quando ero giovane, in famiglia povera, comunque andato via di casa 18 anni, io ho venduto i libri porta a porta da Einaudi per esempio e assicuro e garantisco che cioè, al citofono le porte il 99.9 periodico erano chiuse e non rispondevano, esatto. Quello 0,001 beh dopo 5 secondi, sì. Ce n'era uno su 1000 che forse un po' impietosito sì. Perché ero bravo a parlare mi faceva parlare, uno su 10.000 firmava un contratto e questa era certo, la regola. È vero chi dice che forse all'epoca tu anch'io mia quando ero giovane era un po' più facile trovare i lavori forse o forse no forse è come adesso non so, nel mio liceo comunque a farlo credo che fossimo in 5 su 500 perché gli altri avevano i soldini in tasca e io no, questa è la differenza. Comunque chiamateci se volete su questo tema, siamo riusciti dal primo maggio sui temi il che non significa negare Oscar. La ma disoccupazione no, ma no però, che è un grave problema soprattutto tra i giovani le vediamo i 40% di disoccupati. Caro Oscar, cos'era questo? Era un saluto i miei gatti salutano i disoccupati però sono molto solidali i tuoi gatti aspetta perché aspetta, però sono disoccupati aspetta, per scelta non me li ricordo no i vabbè gatti. Vabbè dai Lulu Lolo Lola Lulu Lolo Ragù sono loro Lulu Lolo Lola Artù e Ragù. E i cinque moschettieri. No, loro sono molto solidari con i disoccupati, perché i miei sono disoccupati per scelta. Non gli passa manco per la testa. Cibo e acqua garantita. Quando loro ti guardano che stai lavorando, e si rimettono a dormire. Va bene. Noi abbiamo un ospite, poi riaffronteremo il tema, eccetera. L'ospite ci ha incuriosito molto quello che abbiamo letto sui giornali. L'ospite è Mirko Cardella, che presiede l'associazione Periscopio. Buongiorno Cardella e benvenuto. Sì, buongiorno. Tra l'altro avvocato, se non sbaglio. No, sono un dottore in legge, però ci tengo a sottolineare che il presidente è un'altra persona, io sono il portavoce. Portavoce. Ahimè. Sta male, quindi lo saluto anche di caro cuore. Va bene. Portavoce. Allora, ci ha incuriosito perché è vero che voi a Licata, provincia di Agrigento, avete querelato sindaco e prefetto accusati di aver prevaricato le loro funzioni perché vogliono abbattere le case abusive a Licata? Sì, il nostro è stato più che altro un esposto querelatorio fatto nei confronti appunto del sindaco e del prefetto, proprio perché secondo noi il protocollo d'intesa che è stato siglato dovrebbe avere dei profili di legittimità, e quindi abbiamo un attimino cercato di interessare la magistratura di Caltanissetta. Ci faccia capire, però loro vogliono abbattere delle case abusive. Sì. Sono abusive. E cosa c'è di violazione della legge in tutto ciò? Allora, questo protocollo di intesa che è stato siglato tra il comune e la procura di Agrigento, secondo noi non si riesce a capire bene se il comune sta agendo su delega, per come è previsto dall'articolo 655 del codice procedura penale, da parte della magistratura, o è la magistratura con mezzi propri che sta appunto si è attivata per abbattere queste case. Vi spiego, la nostra è una realtà molto piccolina a Licata, siamo un comune di 35.000 abitanti, l'economia non è per niente florida. Il nostro comune è in disavanzo totale, ha sforato più volte il patto di stabilità e non riusciamo nemmeno a capire questi soldi come verranno recuperati. Questa è una questione di, come dire, di uso tecnico dello strumento, voi contestate. Però, sì, l'uso tecnico, perché... Ho capito, però il concetto è che devono abbattere le case abusive, cioè è giusto abbattere le case abusive, sì o no? Allora, il reato, qualora si è accertato, e in molti casi è stato accertato, di certo è giusto, perché si è andata in violazione delle norme. Tra l'altro noi, io ci tengo a sottolineare, non abbiamo accusato i magistrati, nei quali abbiamo il massimo rispetto e la massima ammirazione. Il nostro è stata appunto una segnalazione fatta alla procura competente. In altro caso, Agrigento, il TAR ha accettato la nostra tesi, perché ha sospeso le demolizioni e ha fatto valere la nostra tesi, appunto. Io non riesco a capire, tra l'altro, un passaggio. Tenete conto che il sindaco di Licata, su un post su Facebook, ha scritto letteralmente: obbedisco a quello che mi è stato intimato dalla magistratura, quando magari si poteva anche o astenere o quantomeno poteva affrontare È questo che io, non so, Oscar, tu capisci qual è la contestazione? È tecnica, questo l'ho capito, per questo esposto querelatorio. Io è un modo per frenare l'abbattimento di case abusive, che lei stesso dice andrebbero abbattute se c'è. Però io quello che voglio sottolineare è un'altra cosa. La nostra popolazione negli anni si è molto abbassata, cioè ci sono stati molti concittadini che sono emigrati all'estero proprio perché a Licata non si riusciva a trovare un posto di lavoro. Molte persone sono emigrate, hanno accumulato dei soldi, e come riportava il dottor Stella sul Corriere, non stiamo parlando comunque di ville, ma di situazioni molto più modeste. Casettine. Tenete conto che molte persone in quelle case anche ci vivono, e quindi ci sarebbe anche il dramma di spopolare queste persone da casa loro. Veniamo un po' al punto. Le case, perché poi io c'è un punto, devo dire la verità, che secondo me a Giantone non è venuto molto bene, perché non era in equivoco. Le case di proprietà, dopo le ordinanze, sono del comune o sono dei privati? No, il comune li ha messe a disposizione del proprio patrimonio, quindi sono teoricamente delle case che vengono occupate abusivamente. Sono del comune? Sono del comune. Sì, fanno parte comune abusive. Abusive del Le comune. Case vengono realizzate vengono... da privati abusivamente. Okay. Vengono realizzate da privati. Sono state acquisite dal comune in quanto abusive. Acquisite dal patrimonio comunale. Ma tenete conto, ripeto, che molte case, quando sono state anche costruite, magari rispettavano il limite dei 300 metri, poi magari l'erosione anche della pattiglia della costa e i futuri accertamenti hanno ritenuto illegittime queste costruzioni. Ah, perché sono diventate, non so, 280 perché la costa si è erosa. Vabbè, sì, ma insomma, comunque sta di fatto, io lo dico questa osservazione, la faccio perché allora avevo capito bene leggendo storia. Allora, arriva l'ordine di rimozione, l'ordine di rimozione ai privati che hanno realizzato questi immobili. L'ordine di rimozione non viene posto in essere, dopo il rifiuto c'è l'acquisizione automatica. Io mi permetto di interrompere per un semplice motivo. Tenete conto che nel 2001 le prime demolizioni avevano iniziato ad essere prese in considerazione. Tutto è stato frenato per il semplice motivo che ai tempi, ahimè purtroppo, ed è stato un caso poco carino, la ditta incaricata è stata anche minacciata. Vabbè. La ditta si è tirata indietro, ma scusi un secondo, io stavo dicendo, lei mi ha detto sì prima, quindi io stavo ripetendo per chi ci ascolta, per fare capire, no? Bisogna essere un po' semplice. Dopo il rifiuto della demolizione il patrimonio viene acquisito dal comune, cioè queste case sono del comune. Lei ha detto sì, conferma. Quindi tra l'altro abbiamo un comune che si trova per essere il proprietario di case abusive. Il comune a quel punto dice: siccome sono entrate nel suo patrimonio proprio perché non sono state rimosse, le rimuovo io. E quindi il titolo legale e formale per farlo è del comune. Sì. Voi sollevate una questione se la delega sia diretta o indiretta dalla magistratura, ma in applicazione delle ordinanze. Voi avete fermato tutto per una questione di lana caprina. Sì, ma c'è anche un altro paradosso. Tenete conto che nel tempo alcuni amministratori locali che hanno presieduto il comune hanno ricevuto, non si capisce bene su quali circostanze, su quali motivi, delle sanatorie edilizie, e noi infatti abbiamo chiesto al prefetto di mandare un'ispezione e verificare un attimino nel merito. Perché loro sì e voi no? Sì, certo. Esatto, il prefetto è stato soltanto. Scusi, ma Cardella, ci abbiamo un dubbio finale. Ma lei era proprietario di una di queste case? No, perché vi siete mossi voi come associazione Periscopio? No, noi ci siamo mossi. Allora, la Periscopio nasce per un principio comunque di legalità a 360 gradi. Poi nel merito è nata questa situazione, però io sono parte interessata. Attenzione, non è che la voglio negare, ci mancherebbe. È interessato? Sì, siamo parte anche noi interessati. Cioè c'ha una casa, è interessato, insomma. In una di queste case che devono essere abbattute. Esatto, sì. Insomma, capisce. Vabbè, Cardella... Il nostro discorso sarà quello di fare, quantomeno, non siamo così presuntuosi, ma chiediamo che la legge sia rispettata. Vabbè, Mirko Cardella. La questione, ci tenga aggiornato, Alessandro, è che naturalmente sul tema degli abbattimenti degli immobili non a norma, se uno chiede, la legge è uguale per tutti. Ottiene in Italia, non ne abbattiamo nessuno, perché i termini assolutamente e schiacciatamente prevalenti non vengono abbattuti. Anche perché abbattuti. Ci vogliono tanti soldi per abbattere, perché poi non pensate che uno va lì, abbatte, e poi le macerie, la demolizione, lo smaltimento dei rifiuti che si creano. Ricordiamo qualche numerino, che a 30 anni dal primo condono italiano ne abbiamo avuti un mucchio, abbiamo 5.400.000 domande che non sono mai state evase. Per essere chiari, quindi l'amministrazione pubblica, in effetti lo Stato, tanto per tornare a un mio cavallo di battaglia, come vedi, non è che trasmette agli italiani nel senso è meglio per voi che smettiate, non lo trasmette, perché non prende in considerazione un terzo delle domande per correggere le cose. Quindi la gente dice: allora ragazzi, quando vieni da me ad abbattere, sono uno su 1000, è la classica atteggiamento dell'automobilista beccato, dice: ma guardi che ne sono passati 50 che andavano visto, più veloce c'era di me. Anche sua moglie, caro signor Vigile. Allora, dopo la pubblicità, vedi, Domenico da Napoli, Stefano D'Asti, Riccardo da Padova, tanti ascoltatori, tanti temi, state con noi perché ne affrontiamo altri, Allora, caro Oscar, ci scrive: grazie Giannino, mi hai suggerito come fare con un rustico abusivo, purtroppo abito a Sondrio e non a Licata, ci scrive un ascoltatore. Vabbè. Comunque pregate Sanguisitano, vedrete Sanguisitano che... ci chiamano in tanti. Federica ci chiama da Roma, buongiorno Federica. Buongiorno a voi, Milan, Giannino. Io volevo soltanto brevemente dire che sono con Milan, nel senso riconosco tutte le difficoltà nel trovare un'occupazione. Io sono un avvocato, lavoro a Roma e lo faccio part time perché ho due bambine, quindi lavorare 10 o 12 ore è diventato problematico per loro. Però in realtà il lavoro c'è, si trova, non è facile. E quindi sono d'accordo con lui, in realtà altre occupazioni o altri tipi di professioni possono essere più faticose. Quindi in realtà riconosco che orari lunghi di lavoro, dice, fare l'avvocato a Roma forse, dice, non è stata una scelta dal punto di vista del mercato molto proficuo, non so, Oscar, però quando... si può lavorare, però sì, si lavora, questo sì. Siamo tanti, siamo tantissimi, si può fare anche fuori. La scelta di altre facoltà come quelle che lei proponeva o suggeriva non so neanche se ci siano qui a Roma all'università, io sinceramente questo non lo so. Però certo, comporta anche il fatto di spostarsi. Ma comporta, Oscar allarga le braccia, come dire, sì, comporta di spostarsi. Cara Federica, grazie intanto comunque per la testimonianza. Sì, comporta anche di spostarsi. No? Secondo alcuni le tendenze è andare a cercarsi il lavoro dove c'è. Però certo, secondo alcuni, cioè, nel mondo bisognerebbe fare così. Cioè, se non vorrei dire, qui adesso siamo ancora al punto in Italia che spostarsi 70 km dal borgo natio è considerato un'ablazione verso un universo lontano. No, poi Oscar è scomodo perché giustamente dicono, però lo dici tu nel senso riferiscono a me, stai a Milano, comodo con la tua famiglia, e lo so, ma infatti sono anche un po', io sono, come dire, a Milano, timido. Poi sono nato a Torino, ma sono nato a 18 anni, sono andato a Roma, sono nato qua, sono andato fuori, sono... quindi, bah, sì, ognuno ha la sua storia, non è che io mi impanco a maestro, dico solo che io da lei non ne avevo, dovevo lavorare, ho tentato di fare quello continuando poi a leggere, a studiare e a lavorare durante il giorno, quindi che bisogna fare? Credo che oggi tantissimi giovani però hanno anche il senso di andare fuori nel mondo, come no, nella come loro no, esperienza dal liceo, prima ancora che dall'università, quindi c'è anche gente che si fa un mazzo tanto poi vedendo, come no, tentando di orientarsi. È vero però, e qui concludo, che lo Stato non li aiuta ad orientarsi, cioè uno Stato dovrebbe dare due grandi siti dove per ogni istituto e per ogni università fossero pubblicati i dati che poi dicono dopo quanti mesi trovi lavoro e a che condizioni di retribuzione, come si fa nei grandi altri paesi avanzati, invece lo Stato questo non lo offre, quindi manca l'orientamento su numeri concreti del mercato, no? Quindi uno crede magari mi iscrivo lì e non si rende conto che sta andando in un canale che, come dicevi giustamente prima, poi non dà possibilità, non è ciò che il mercato domanda. Lo Stato secondo me dovrebbe fare di più per informare davvero le famiglie e gli studenti. Intanto ci chiama Domenico da Napoli, buongiorno Domenico. Salve, buongiorno a tutti. Eccoci. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Sui complimenti tagliano. Guardi, la linea va e viene, Domenica. La ripristiniamo, Domenico, perché va e viene un po' la linea. Andiamo a Stefano da Asti. Buongiorno, Stefano. Ciao Alessandro, ciao Oscar. Ecco. Io volevo fare una piccola riflessione sulla tua affermazione, sul fatto che il lavoro c'è. Sono d'accordo, è vero, il lavoro c'è. Hai ragione, e se uno mette la buona volontà, lo può trovare, però il problema è questo, che al giorno d'oggi per trovare lavoro, purtroppo, se uno trova lavoro è perché ha anche una bella raccomandazione, cioè ormai siamo diventati il paese, oltre a essere un paese veramente corrotto dentro, è il paese del classico delle raccomandazioni. Un po' è vero, Stefano mette il dito, secondo me è un problema che è vero per le aziende ancora, noi viviamo troppo in un'economia relazionale, cioè di che ti mando io, se ti conosce tizio non vedo neanche cosa hai fatto. Beh, se è sconosciuto, cara signora, non ci faccia perdere tempo. Questo è vero. Però non è vero, forse, adesso Stefano, io non so che cosa hai fatto, che studi hai fatto, eccetera. Se io voglio andare a lavorare, che ne so, a fare il cameriere, non credo che ci voglia una raccomandazione. Se voglio andare a lavorare, fare la commessa. Non lo so. L'economia ma, insomma, delle relazioni, però, volendo, c'è nel... volendo trovare un posto da commessa, uno lo trova. Non lo so, ma cito il primo lavoro. Volendo fare l'idraulico, se uno è in grado, ce la fa. però non so, dipende. Secondo me il dipende. Problema relazionale è troppo forte. Perché è relazionale? Forte. Perché in Italia non si guarda davvero al merito, si guarda, si preferisce questo il contatto personale a prescindere dal merito, e questo è un difetto dei privati. Qui è giusto dire che no, lo Stato non c'entra, lo Stato è anche lui così, ma anche è la società italiana che poi è così. Non viene valutato quando lavori, soprattutto. Domenico ci chiama da Napoli, allora l'abbiamo ripristinata. Domenico, eccoci. Buongiorno a tutti. Io volevo fare una domanda. Io sono un aspirante ingegnere, lavoro da ormai 8-9 anni nel settore dei CT informatico. Sì. Mi trovo a volte a dover rifiutare proposte di lavoro perché il job act che avrebbe dovuto dare stabilità in realtà dà precariato. Io vorrei sapere se esiste un giornalista che abbia mai chiesto a Renzi se effettivamente è possibile licenziare senza giusta causa. Perché quando sento Renzi che dice per discriminazione non si può licenziare, se una donna è incinta non si può licenziare, ma se per motivi economici, anche illusori, io posso licenziare e non ho l'obbligo di riassumere, io non dirò mai ad una persona ti licenzio perché sei incinta, dirò sempre ti licenzio perché non ho difficoltà economiche. Domenico, però nella norma il licenziamento economico individuale, certo che è stato introdotto, è il punto forte del Jobs Act del governo, però se esistono elementi tali da configurare l'ipotesi che sia un licenziamento discriminatorio travestito da licenziamento economico, si può andare da giudice, no? Cioè c'è scritto, non è che Domenico ci sta dicendo, cioè molte aziende rischiano di come dire travestire da in quel licenziamento... caso i lavoratori si possono tutelare e c'è scritto anche che perché se un'azienda dice abbiamo in difficoltà economiche e poi dovrà dimostrarlo, se è un finto discriminatorio l'azienda c'ha l'aggravanti, poi viene stangata. Domenico, la norma c'è scritto, non è più che dirti questo. Comunque esistono giornalisti che glielo hanno chiesto anche nelle conferenze stampa, lui ha risposto dicendo non rompete le scatole, però esistono. Domenico, non è testuale, non so se è proprio però, questa dicendo risposta, ma che dice. Però insomma altro che se glielo hanno chiesto. Riccardo da Padova, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Allora, io vi chiamo perché io sono un caso molto particolare. Io sono un architetto riconvertito all'ingegneria meccanica. Sono un caso molto particolare. Io in questo periodo sto trasformandomi, oltre a ingegnere meccanico, a docente, e trovo nei ragazzi che escono dalle scuole e così via grossi problemi nella formazione. Quello che ci diceva Oscar, perché sì, lo Stato non forma, non esiste un sistema scolastico che formi. Beh, esiste anche la possibilità dei ragazzi di formarsi autonomamente attraverso bandi europei, perché io come docente lavoro con delle associazioni che fanno formazione con programmi di progettazione meccanica, e spesso ci sono grossi problemi a trovare le persone secondo me hai perfettamente ragione, e sai, per quello che hai fatto specializzando prima in architettura, adesso in ingegneria meccanica. Faccio un esempio: il paese manifatturiero numero uno, noi siamo il numero due in Europa. La Germania, da sempre, dall'epoca Guglielmina, e lo ha tenuto fermo nel tempo, ha un sistema di formazione duale, quindi sia professionalizzante sia ai licei, ma quella professionalizzante da sempre nel ciclo secondario è quella prevalente. L'80% degli studenti nel ciclo secondario in Germania frequenta Hochfachschule, cioè scuole tecniche fatte insieme alle imprese. Il 40% degli iscritti all'università in Germania frequenta università e anche istruzione poi post terziaria, post università professionalizzante fatta imprese è stato insieme nei curricoli informativi. Da noi queste cose non esistono. E anzi, se dici ma vogliamo fare così, la risposta è vuoi mettere le aziende nelle scuole, e allora i risultati poi sono a volte quelli, sì, una mancanza di formazione, di equilibrio tra domanda e offerta, di andare e sul mercato, portare nelle scuole l'evoluzione dei profili che il mercato lavoro chiede, ma per quello che sono qui negli studi tecnici vai ancora e trovi i vecchi torni, torni non ci sono da 30 anni nella manifattura meccanica, no? Capisci? È tutto digitalizzato, ci sono le macchine numeriche, chiedono tecnici in grado di seguire, processare e controllare le macchine numeriche delle filiere che sono automatizzate. Vedi, ci chiama anche Ciro da Pesaro, in tanti ovviamente sul tema del lavoro ci stanno chiamando, come è comprensibile. Ciro è uno dei temi più buongiorno importanti. Buongiorno a tutti. Eccoci Ciro. È un piacere sentirvi. Allora, io ho chiamato perché, essendo un piccolo imprenditore, io ho il problema inverso. Io non riesco a trovare personale che abbia voglia reale di lavorare. Trovo solo persone che vogliono una paga. Però la realtà è che poi, di fronte al lavoro, nessuno, io ne ho cambiati diversi purtroppo, ma nessuno ha dato prova di avere iniziativa, voglia di imparare, voglia di intraprendere. Secondo lei perché? Io questo non lo so, io suppongo che sia una generazione così, perché io faccio difficoltà a trovare, come ho detto... Però Ciro, la paga è importante, cioè lei la garantisce ed è anche sufficiente. La paga è garantita ed è sufficiente, questo lo posso garantire perché siamo sui contratti nazionali. Okay. Io, come ho detto alla persona, ho un'azienda che fa forniture per ufficio e vivo anche di un punto vendita chiaramente aperto al pubblico. Il personale nel punto vendita non è all'altezza di gestire un punto vendita. Ma fanno fatica, scusi, perché non hanno voglia di applicarsi, o non sono formati? Guardi, allora, non sono formati, non si vogliono formare e soprattutto non hanno spirito di iniziativa, soprattutto quello. Quindi quando arrivano al lavoro si siedono da una parte, aggeggiano con i cellulari, aspettano che entri un cliente. Oggi piccole realtà come noi non possono vivere delle persone che arrivano nel negozio. Deve avere l'intrapresa di cercare il mercato in maniera diversa. Cioè quasi devono sapere anche preportare il cliente, diciamo. Devono cercarselo, coltivarselo, sedurlo. Esatto. Ciro, guardi... Ci sono reti bancarie in cui i promotori dicono: non potete aspettare più nell'agenzia, dovete acchiappare qualcuno e dirgli: io risolverò il tuo problema anche se hai bisogno di me per coprire il tradimento con tua moglie. Giuro che ho sentito questa frase da un caporete. Naturalmente partivano gli applausi delle signore, perché dicevano: vale anche per noi però. Ovvio, ovvio. Grazie Ciro, andrei a Torino da Gualtiero. Buongiorno Gualtiero. Sì, buongiorno, complimenti a Oscar e Alessandro per la trasmissione. Senta, io volevo dire, rimango un po' basito da quello che ho sentito prima. La situazione lavorativa, qua almeno per quanto riguarda Piemonte, sono un commerciale in un'azienda, mi occupo di trasporti, spedizione, logistica a Rivoli, ed è un'ecatombe. Lavoro non ce n'è, le aziende chiudono il giorno ogni 3x2, e vivo anche direttamente una situazione dove una figlia che si sta laureando in ostetricia, bandi di concorso chiusi da anni, non si trovano posti . E sta guardando giustamente all'estero, come anche una situazione che vedo anche delle colleghe di mia figlia o altri amici di figli di amici. Quindi veramente sì, può darsi che si trovi qualcosa, 600-700 euro al mese a fare i precari, a fare il cameriere, pizzaiolo da qualche parte, ma punto, finisce lì. La situazione, la struttura della piccola media impresa, almeno io parlo per quanto mi riguarda il nord-est, quindi il nord-ovest, mi scusi, e vivo direttamente questa situazione, è drammatica, è drammatica. Io mi ricordo, e quello che mi colpisce maggiormente, è che facendo il commerciale, fino a qualche anno fa, andavo dai clienti, parlavo con i clienti e la situazione, diciamo così, la crisi più o meno veniva affrontata sempre con un certo ottimismo. Nel senso adesso che... invece ha colpito duro, no? Ma questo sicuramente i numeri ti danno ragione, Gualtiero, quindi è così, adesso non devi generalizzare. Se poi però mi fai per esempio l'esempio di tua figlia, ottimo, una grande vocazione, però questo lo diciamo ai ragazzi in ascolto, non tua figlia che sicuramente ha ottimo merito, pensateci prima di iscrivervi, perché i posti nello Stato e nella sanità pubblica, se andate a vedere, e guardate che è un'illusione credere che ci siano per assecondare tutte le vostre vocazioni, questo bisogna saperlo che è così. Senti questa, Laura da Torino ci scrive: mi sono inventato una professione, property finder. Proprio cioè finder. Cerco la casa a chi non ha tempo di farlo. Bello, brava Laura. Brava Laura, si è inventata una professione. Pensa a Milano, per dirne un altro, 8 anni fa, quando iniziarono le prime specializzazioni di personal shoppers per gli stranieri ricchi che vengono a Milano, la moda, lo sanno tutti, tutti credevano che fosse solo per 4 principi arabi. Invece ci sono cooperative di giovani formati nella moda, nel design, eccetera, che campano benissimo facendo questo. Bisogna avere anche l'inventiva su questa roba qua, quindi rischiare e sapere che... Però intanto fanno fior di soldini, altro che... Dispiace per Marco da Milano, non c'è più spazio, ma insomma abbiamo sentito tantissimi ascoltatori con posizioni differenti. Hai toccato un tema stamattina che è un tema molto vissuto, secondo me, molto sentito in Italia. Credo di sì, e gli insulti me li metto in saccoccia, me li porto a casa. Ma questa è l'amara, ma no, l'amaro dovere di chi dice la verità. Ma sono abituato al Milan di Brocchi, ma cosa vuoi? Ma dai, anche l'Inter, dai, anche l'Inter, rassegna. Meno male che c'è l'Inter. Meno male. Meno male che c'è l'Inter. Penso che Torino per una volta ha fatto una messa di gol, non voglio crederci, vabbè. Dai. Ci troviamo domani. Ciao. A domani.